Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di denari. Conducono la edo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ti stai sbagliando, che hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Sì, la canzone è giusta anche proprio per la vicenda che ci stava raccontando poco fa in privato Alessandro Milan. Non è molto privata la vicenda, perché in realtà lui l'ha raccontata anche sui social network, e ci è venuto in mente di potercene dedicare a breve anche qui a Due di Denari. Quindi un po' scambi di identità, scambi di dati personali, errori nel compilare certi documenti e tipo anche partire il TFR. E qui adesso è un fatto non, diciamo, doloso, non c'è stato un furto di identità, ma proprio un errore materiale. Che è successo? È successo che un lavoratore si è ritirato, è andato in pensione, si aspettava il TFR. Il TFR non è mai arrivato. Perché? Perché hanno sbagliato l'IBAN. E l'IBAN è andato, ha fatto sì che il TFR andasse sul conto di un altro. Il lavoratore ha atteso un po' di mesi, poi ha contattato l'INPS, l'INPS gli ha detto no, noi abbiamo regolarmente pagato il TFR. A metà agosto, peraltro. Certo, sì, ma non a lui, cioè non alla persona a cui spettava. Lui avrebbe anche rintracciato, la vicenda viene raccontata, esatto, dal resto del Carlino con tutti i dettagli, lui avrebbe anche rintracciato chi è stato poi destinatario di questi soldi. È un giovane di Forlì che lui ha poi contattato e mi ha detto di aver segnalato all'ufficio postale di aver ricevuto soldi non suoi. Gli hanno risposto, vabbè, chieda all'INPS. E così. Sì, ma è incredibile, c'è un lavarsi le mani rispetto a questa situazione che ha dell'incredibile, perché poi tra l'altro mi colpisce che sia stato ritrovato il destinatario di questo importo, totalmente disponibile a restituire, e non può far nulla. Perché, probabilmente, cioè, può solo restituire per le vie brevi, cioè passare un bonifico, lui, i soldi però, al lavoratore. Però sarebbe anche irregolare, perché poi se risulterà che è stato fatto questo pagamento sul conto di questo ragazzo, non vorrei che il fisco andrà, che potrebbe succedere qualcosa anche a livello fiscale? Beh, sicuramente lui avrà, di solito sai che il TFR è a tassazione separata e viene sempre ricalcolata la tassazione, quindi poi andiamo a capire chi l'Agenzia delle Entrate disturberà per conguagliare. Dopo vediamo se qualcuno si sveglia a risolvere questa situazione. Comunque, vabbè, peraltro l'ascoltatore, la vittima di questa vicenda, il signor Vincenzo, lui sostiene di aver correttamente compilato tutti i documenti e di aver dato all'INPS l'IBAN corretto. Però questa vicenda ci richiama alla memoria anche quanto è successo nella famosa giornata del data breach del 1° aprile per tutte le indennità per i lavoratori appunto momentaneamente senza lavoro, ricorderete, in piena emergenza Covid, quante persone non ricevevano i 1.000 euro perché avevano compilato male la documentazione ed effettivamente gli estremi dell'IBAN erano stati in certi casi appunto indicati non correttamente, quindi non arrivavano i soldi anche per quello. Quindi fate attenzione, l'IBAN d'altronde è lunghissimo, si può cadere in errore molto facilmente, non è colpa di nessuno. L'IBAN è un materiale molto delicato da maneggiare con cura, e da maneggiare con cura anche le cose domestiche, specialmente quelle altrui, come ben sanno le persone che ci aiutano in casa, collaboratrici, collaboratori familiari, colf, badanti, per le quali c'è un nuovo contratto. E anche un nuovo nome peraltro, perché adesso si chiameranno tutti assistenti familiari, non più colf, badanti o babysitter o collaboratori domestici. E allora da colf passiamo ad ASFA, perché potrebbe essere questa la sigla? Non lo so. Allora, se volete interloquire con noi a proposito di contratto della colf, contratto delle colf, segnalarci questioni, porci domande, allora il numero verde è sempre il solito 800 24 00 24, oppure messaggi sms o whatsapp al 349 238 6666. Di tutto ciò parliamo più avanti, dopo naturalmente l'obbligatorio e doveroso giornale radio del risparmio, che come sempre il mercoledì è un po' un giornale radio del lavoro. Ottimo. Amore, i soldi. Posso anticipare però, perché ci tengo, che questa mattina, oltre al nuovo contratto di lavoro per i collaboratori domestici, per gli assistenti familiari, parleremo anche di un'importante iniziativa che viene presentata proprio in questi minuti al Ministero dell'Economia. C'è un pacchetto di misure molto importanti per la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, visto che il mercoledì è la nostra giornata del lavoro. Naturalmente occupiamoci anche dello stato di salute finanziaria delle imprese, che possibilmente vorrebbero occupare persone sempre di più, ma in questi mesi hanno fatto un po' di fatica a, naturalmente, ad investire anche da questo punto di vista. C'è un'importante iniziativa che viene presentata adesso al MEF e noi ne parleremo fra una mezz'ora circa. Sì, dopo il traffico ci colleghiamo con un ospite di primissimo piano, come sempre d'altra parte sono gli ospiti e le ospiti qui a Due di Denari, proprio per illustrarvi questa iniziativa. Serve appunto a favorire la capitalizzazione delle imprese, quindi a dare solidità finanziaria o a ritrovare solidità per le imprese colpite più duramente dalla pandemia. Restiamo con l'INPS invece come prima notizia. Bene. Perché oltre alla questione del TFR attribuito ad altri, l'INPS invece ci ha segnalato che sono aumentati i nuclei familiari che beneficiano del reddito e della pensione di cittadinanza. Ad agosto superano quota 1.300.000, 1.304.000 per la precisione, coinvolgono nel complesso 3 milioni di persone. Dati aggiornati dall'INPS, appunto, che ha sottolineato come l'incremento sia stato di oltre il 23% rispetto al gennaio del 2020. Per il solo reddito di cittadinanza l'incremento dei nuclei che ne beneficiano è stato di oltre il 25%, e che corrisponde a un aumento del 21% nel numero di persone coinvolte. Senti, oggi è il lavoro anche per le pagine del Sole 24 Ore. Certo. C'è punto lavoro, ma soprattutto c'è una articolata e approfondita appunto indagine sullo smart working. Più che un'indagine, è un po' un riepilogo di tutte le norme che naturalmente dobbiamo attentamente conoscere per poter lavorare secondo questa modalità, come molti di noi hanno avuto l'opportunità di fare da quando è scoppiato il lockdown. Quindi c'è chi aveva sperimentato la modalità del lavoro agile perché l'azienda lo consentiva già da tempo, per molti c'è stata un'accelerazione improvvisa a partire da marzo, e quindi dalla fine del lockdown più di 2 milioni di persone sono tornate a lavorare in ufficio con postazioni a distanza e da prenotare, e anche questo è successo appunto con la ripresa della normalità. E allora come convivono questi due sistemi, dallo smart working totale a quello un po' a metà? Perché per esempio io la mattina lavoro in radio, il pomeriggio mi rimetto a lavorare a casa, caro Mauro, quindi mi devo leggere molta attenzione questa sintesi del Sole. Tu sei un half smart remote esatto. Working. Senti, io non lo so, ma forse si parlerà anche di te. Guarda, sabato 19 con il Sole 24 Ore. Davvero? Sarà in vendita un libro proprio smart working, il domani è già arrivato, in cui sono stati raccolti interventi di vari esperti, economisti, giuristi, sociologi, insomma. Questo volume sarà in edicola poi per un mese con il Sole 24 Ore, ma se non volete trovarlo esaurito io vi consiglierei già nella giornata di sabato di acquistarlo, 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano. Mi sembri una signorina, buonasera, anzi buongiorno, per non dire buon pomeriggio, buon sabato. Senti, allora, ieri ti ricordi che abbiamo raccontato della disavventura della quale sono stati protagonisti molti clienti di Unicredit fra lunedì e ieri, perché appunto la banca ha visto qualche difficoltà nel funzionamento dei suoi sistemi informatici, e quindi per molte persone non era possibile collegarsi all'home banking, addirittura per molti non è stato possibile fare bancomat, insomma tante funzionalità interrotte, malfunzionanti o rallentate. Pare che adesso sia stato tutto ripristinato. Ieri sera addirittura la banca si è scusata in una nota con tutti i propri clienti per i disagi causati in queste giornate. L'istituto ha fatto sapere ai clienti che i sistemi sono stati ripristinati e sono operativi, nessun attacco hacker, avrebbe assicurato, ma semplicemente forse una questione di manutenzione dei sistemi informatici appunto che ha determinato questo malfunzionamento temporaneo. Oggi vuoi andare in Borsa Italiana? Ma pensavo sì di fare un po' di investimenti, disinvestimenti, cose così, però volevo prima sapere come andavano i mercati, me lo dirai tra poco. Te lo dico fra poco. Esatto, c'è l'Italian Equity Week in corso, è partita il 7 settembre, si conclude il 18 settembre, tanti incontri con l'obiettivo di promuovere e supportare il dialogo fra le aziende italiane e la comunità finanziaria internazionale. Ma la cosa interessante è che mentre negli anni passati ovviamente Borsa Italiana, il Palazzo Mezzanotte era pullulava di persone che venivano anche dall'estero naturalmente per avere questi incontri con le aziende italiane, soprattutto con le società quotate, adesso tutto si sta svolgendo in formato digitale, anche nel rispetto, dice Borsa Italiana, dei diversi fusi orari dei paesi in cui operano le varie case di investimento che incontrano le società quotate appunto a Piazza Affari. Gli incontri di questi giorni sono organizzati per settori, per esempio per le due giornate di oggi e domani l'impegno è tutto attorno alla finanza, e quindi si parla naturalmente di società di servizi all'investimento, le società fintech. E per quello che riguarda l'ultimo giorno invece, il 18 settembre, è una giornata che farà un po' da jolly con sessioni di recupero per gli incontri che non è stato possibile mettere in agenda nelle quattro precedenti giornate. Sai che io sono appassionato per le segnalazioni dei siti, in questo caso per questa notizia che vi ha appena illustrato Debora, www.borsaitaliana.it. E adesso ditelo a due di denari, qualcuno ce l'ha detto. Dillo a due di denari. Alle poste non è che gli devono fare non so quanti milioni di euro di multa gli ha fatto l'antitrust, ma proprio levarli, cancellarli, perché non sono qualificati per fare questo lavoro. Vede, io faccio il corriere, noi consegniamo circa 100 pacchi al giorno, 100 stop al giorno, e siamo pagati come si deve pagare un corriere. Le poste, io vedo tanti corrieri delle poste, un giorno c'è uno, un giorno c'è l'altro, un giorno c'è un altro. Io sono 4 anni che faccio sempre la stessa zona, conosco i clienti a memoria, so dove trovarli se non sono a casa, e ormai fra noi è nata una certa simbiosi. Mentre col poverello delle poste, un giorno va lì, un giorno va di qua, e poi hanno pacchi Amazon, raccomandate, lettere ordinarie. La colpa non è del corriere o del postino, che poi hanno contratti a tempo determinato. Infatti l'antitrust non è che ha multato i singoli operatori che o suonano o non suonano alla nostra porta, ha multato l'azienda, che però se l'è presa. Usando un termine così un po' gergale, volano gli stracci. Sono volate proprio a male parole quasi ieri. Tra Poste Italiane e l'antitrust volano gli stracci proprio in ragione di questa multa da 5 milioni con cui l'autorità ha sanzionato le poste perché, a sentire l'autorità, non ci sarebbe un servizio così come annunciato e così come dovrebbe essere proprio per la consegna delle raccomandate. Le poste l'hanno presa malissimo e hanno replicato, non per modo di dire, Debora, perché hanno proprio replicato con un durissimo comunicato dicendo che è priva di qualsiasi fondamento l'ipotesi secondo la quale l'azienda avrebbe posto in essere azioni che ingannino i clienti in merito alle caratteristiche del prodotto raccomandato. Più oltre, lascia esterrefatti il riferimento contenuto nel provvedimento dell'autorità ai servizi di notificazione mezzo posta all'asserito grave danno che Poste avrebbe arrecato. Quel passaggio proprio non gli è andato giù. No. Insomma, la Poste Italiane respinge al mittente tutte le accuse e vedremo se riuscirà a respingere anche la multa, più che altro, perché 5 milioni di euro non sono pochissimi. Hanno però già annunciato che presenteranno ricorso al TAR del Lazio, quindi la vicenda è tutt'altro che conclusa. Ma mi ricorda un po' la questione degli addebiti in bolletta, della rimodulazione delle bollette telefoniche, ti ricordi? Insomma, poi è partita tutto un giro di corsi e ricorsi e contro ricorsi, e quindi ho la sensazione che non sarà l'ultima volta che parleremo di questa lite, di questi colpi di fioretto, ma non tanto, tra antitrust e Poste Italiane. Mi chiedevo soltanto se la replica di Poste è stata mandata all'antitrust con una raccomandata e se gliel'hanno consegnata per benino. E con questa direi di partire col tema di stamattina, Gianmarco, abbi pazienza. Parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro molto importante, Mauro. Parliamo di 848.987 lavoratori domestici regolari censiti dall'INPS e 176.848 in fase di regolarizzazione con la sanatoria prevista dal decreto rilancio. Per queste persone che ci aiutano nelle incombenze quotidiane sono in arrivo delle novità importanti che riguardano il contratto di lavoro. E noi ne parliamo con Alessandro Lupi, che è vicepresidente di Assindatgolf, l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. Questa associazione, insieme a Fidaldo, la Federazione Italiana dei Datori di Lavoro Domestico, firma il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, dottor Lupi. Buongiorno a voi, grazie, buongiorno a tutti. Allora, sul Sole 24 Ore del lunedì, scusi ma sa, ognuno poi cita le letture più abituali e per me lo è. Sul Sole 24 Ore di lunedì scorso dell'altro ieri c'era una pagina intera proprio dedicata alle nuove, alle novità del contratto nazionale di lavoro per il lavoro domestico. Vuole riassumercele lei per quelli che non avessero letto questa pagina del Sole 24 Ore? Immagino pochissimi. Ma pochissimi, sa. Assolutamente, non ce ne sarà bisogno. Allora, sì, è stato firmato l'8 di settembre il rinnovo del contratto collettivo del comparto. È un comparto, come dire, che ha dei numeri, come giustamente ricordavate, importanti, che riguarda insomma tante famiglie, tanti lavoratori. Questo contratto entra in vigore il 1° di ottobre del 2020, quindi tra qualche settimana, durerà fino al 31/12 del 2022, prevede per i lavoratori un aumento, diciamo, retributivo con decorrenza dal 1° gennaio del 2021. L'aumento è stato negoziato sulla base del livello BS, che sono, diciamo, gli assistenti familiari, le badanti che assistono le persone autosufficienti, di pari a 12 euro lordi mensili. Questo aumento poi viene declinato ovviamente per tutti i livelli di inquadramento, e quindi in maniera proporzionale. Sono aumenti in linea con l'inflazione e quindi il recupero della perdita del potere di acquisto da parte dei lavoratori in questi anni. C'era qualche anno da recuperare dalla scadenza contrattuale. Sì, perché infatti il contratto precedente era scaduto già da 2016, tempo. 2016 mi pare. Sì, esattamente nel 2016, quindi insomma qualche recupero dell'inflazione era da recuperare, e gli aumenti sono sostanzialmente in linea. L'inflazione non ha avuto insomma un andamento particolarmente importante in questi anni, e quindi anche di conseguenza gli aumenti sono proporzionali a questo andamento. Quanto costerà alle famiglie italiane questo rinnovo, dottor Lupi? Naturalmente dovuto, come lei ci spiegava, era solamente per fare un po' una quantificazione, insomma sarà un aggravio consistente o tutto sommato sostenibile? No, beh, come dire, il dato che ho esposto poco fa le dà già un ordine di grandezza: 12 euro mensili su un livello medio, che poi i lavoratori, gli assistenti a persone autosufficienti conviventi sono un numero, come dire, importante della platea. Quindi 12 euro lordi per 13 mensilità, insomma questo è un valore medio di aumento. Poi l'altro aspetto, come dire, che ha un peso economico, ma che porta a nostro avviso dei benefici interessanti e importanti, è l'aumento dei contributi di assistenza contrattuale. È stato previsto un incremento di questi contributi, di cui beneficeranno i lavoratori in primis, con un progressivo miglioramento dell'assistenza sanitaria integrativa di cui beneficiano. Piano sanitario, mi permetto di sottolineare, che non ha nulla a che invidiare a quello di altri comparti. E poi per la prima volta nel comparto di questo aumento dei contributi di assistenza contrattuale ne beneficeranno anche le famiglie. Perché? Perché è allo studio, anche se non è ancora, come dire, definita e delineata questa proposta, ma contiamo che coi primi mesi dell'anno prossimo questo vada a regime. Stiamo studiando una sorta di welfare a vantaggio delle famiglie. L'idea che sta prendendo corpo è quella di una forma assicurativa sulla non autosufficienza, quindi sul, diciamo, l'esempio delle polizze long term care, per intenderci, sì. E quindi vada ad assicurare il datore di lavoro contro il rischio della non autosufficienza. Quindi tu, datore di lavoro domestico, diventi sfortunatamente non autosufficiente, hai diritto al pagamento di una rendita per un certo periodo, e pensiamo che, essendo comunque all'interno del comparto del lavoro domestico, facilmente questa rendita verrà spesa proprio per l'assistenza, creando quindi una sorta di circolo, come dire, virtuoso interno al comparto, cioè ti do delle risorse che facilmente, purtroppo per te, sarai costretto a spendere all'interno del comparto stesso. Questa, come dire, è un'idea che stiamo sviluppando e che giustifica appunto questo aumento dei contributi di assistenza contrattuale. Allora, abbiamo diverse domande già dagli ascoltatori, sì. Anche qualcuno che vuole intervenire in diretta. Io ho una domanda però iniziale, allora le chiedo una conferma. Questi aumenti devono scattare dal 1 gennaio 2021, ho capito bene? Corretto, correttamente. Quindi il contratto è in vigore dal 1 ottobre prossimo 2020, sì. Ma sì. Gli aumenti scatteranno dal 1 gennaio. Sì, questo perché il contratto collettivo non è fatto solo di, diciamo, di parte retributiva e parte economica, ma anche di parte normativa, e quindi ci sono alcune novità contenute nel contratto che invece hanno come decorrenza il 1 ottobre 2020. Deve essere prevista una qualche integrazione, lei ci ha ricordato che il contratto era scaduto nel 2016, adesso ripartiamo nel 2020 con l'adeguamento, quindi c'è una qualche integrazione per il pregresso o si non parte ci sono, da... Non ci sono cosiddetti arretrati, ecco. Bene. Chiarissimo. Deborah. Sì, no, direi che sono le 11:28, farei la borsa, poi sentirei gli ascoltatori subito dopo, così almeno non li facciamo intervenire per poi rimandare la risposta alla seconda parte del programma. Sono pronti ad intervenire Eddie da Milano e Simone da Genova. Per la verità, Marco Lombardo ci segnala che al momento domande sul nuovo contratto non ne abbiamo, ma abbiamo appunto situazioni problematiche preesistenti che affronteremo volentieri. Ma che dici, faccio la borsa? Eh certo, adesso le borse. Bravi, bravi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. No, bravissimi Meazza e Rosciani, ma insomma, ormai è troppo l'ennesima volta. Si dice data breach, come peach, pesca, come beach, spiaggia. Data breach, non breach, vi prego. Meazza, ciao, sono Fabio da Monza. Secondo me l'antitrust ha ragione, perché molte volte io sono in casa, non suono nemmeno il campanello, mi trovo la strisciata dentro nella posta da andare dopo 2 giorni alla posta più vicina a ritirare la raccomandata. Quando ero benissimo a casa poteva suonare e io scendevo a ritirare il tutto. Secondo me l'antitrust ha ragione, ma a me è successo più di una volta. Secondo me noi saremmo chiamati a testimoniare come persone informate dei fatti su questa vicenda, Mauro, la vedo difficile di fronte a noi. Guarda, basta che non mi facciano testimoniare in inglese, perché come hai sentito dall'ascoltatore sono deboluccio. Il data breach. Restiamo. E che ci piace di più breach, non so per quale motivo, e quindi vabbè, è come, guarda, il Facebook, ma possiamo fare qualche volta un po' come ci pare, no? No. Dobbiamo essere rigorosi. Oggi è mercoledì, dobbiamo parlare di lavoro. Stiamo parlando di lavoro domestico. Allora, ci stanno spiegando da Assin.Golf, dal vicepresidente Alessandro Lupi, come funziona questo nuovo contratto che è in vigore dal 1 ottobre e comporta aumenti retributivi dal 1 gennaio. È stata anche introdotta la nuova denominazione di Golf, badanti, babysitter, collaboratori domestici o collaboratrici domestiche. Si chiameranno tutti assistenti familiari. Allora, chiarite queste cose, anzi riepilogate, dottor Lupi, le faremo ascoltare la domanda di un ascoltatore o ascoltatrice, che credo sia un'ascoltatrice che ci ha chiamato da Milano, Edi. Buongiorno. Buongiorno, allora sì, io sono Edi. Sì. Lavoro come golf in una casa, in due case, una mattina e una la sera dal 94, quindi stiamo parlando di un po' di anni fa. Purtroppo il mio datore di lavoro e a febbraio di quest'anno, un po' prima del lockdown, è morto. È mancato. E diciamo che lì è stato il primo problema, perché comunque dopo non ho avuto niente, diciamo, no? Sì, si è interrotto il rapporto di lavoro. Si è interrotto, infatti. Poi la signora, la moglie che, con cui lavoro ancora, ha chiesto come fare e le hanno consigliato di chiudere quel contratto, anche perché non c'era possibilità, le hanno detto di fare di subentrare e di riaprire un altro nuovo. Sì. Quindi a questo punto però io sono praticamente nuova in questo contratto. Ho perso, diciamo, tutto quello che potevo avere per la mia anzianità. Due, avrei bisogno di sapere, visto che devo pagare le tasse di quest'anno, che comunque non sono poche, anche se faccio solo la colp, visto che io ho fatto la richiesta delle indennità per il Covid e non mi è stato dato mai una risposta né positiva né negativa, avrei bisogno di sapere se posso chiedere all'INPS di fare una... Certo, Edi. Se la può chiedere adesso, appunto, questi famosi 1000 euro che ricordavamo prima, microfoni spenti con Mauro, che sono stati riconosciuti appunto ai collaboratori familiari un dal Natale, mese di maggio, mi pare di ricordare. Esatto. Forse essendo priva di contratto di lavoro momentaneamente, magari per questo Edi non ha potuto chiedere, non lo so, lo chiediamo a Lupi, dottor Lupi. Sentiamo Lupi. Sì, no, adesso purtroppo la tempistica non ci aiuta, nel senso che se mi sembra di capire che sia passata da un contratto di lavoro a un altro praticamente senza soluzione di continuità, nel senso che le hanno venuto, no, credo, mancato. Con soluzione di continuità, no, credo che si sia interrotto, interrotto. Sì, no, volevo, sì, con interruzione, ma come dire, senza una cesura temporale, quindi nel momento in cui c'è stata una finestra abbastanza ampia per poter richiedere l'indennità, e quindi se in quel momento il rapporto era vigente avrebbe potuto comunque accedervi. Richiederla. Allora noi invitiamo Edi a scriverci, a presentarci, esatto, il suo caso, e lo facciamo anche se aveste altri casi da sottoporci a Due di denari, è scritto tutto a lettere, due di denari @radio24.it. Altre informazioni sul nuovo contratto invece le trovate su asin.golf.it, che è il sito appunto di asin.golf, dove c'è proprio uno speciale dedicato al nuovo contratto. Dottor Lupi, cosa ci stiamo dimenticando di ricordare di questo nuovo contratto del lavoro domestico? Ah, sì, una cosa interessante l'avete evidenziata voi un cambio della denominazione. Come dire, è interessante spiegare la ragione. Nel dicembre del 2019, presso UNI, l'ente di normazione italiana, è stata approvata una norma tecnica sulla professione non riconosciuta proprio dell'assistente familiare, cioè di questa categoria, a cui anche la nostra bilateralità ha diciamo contribuito al tavolo per la scrittura di questa norma tecnica. E quindi questa norma tecnica consentirà ai lavoratori di acquisire una patente, una certificazione di qualità che attesti la loro professionalità. Nel contratto abbiamo fatto due cose: un adeguamento terminologico a quelli che erano, diciamo, le novità intervenute nel dicembre 2019 con la norma tecnica. E poi abbiamo previsto a regime, una cosa che entrerà in vigore un pochino più avanti nel tempo, già oggi, un'indennità economica specifica per quei lavoratori che avranno conseguito la certificazione di qualità. Quindi premiamo la professionalità acquisita. Ricordo anche che l'ente bilaterale del nostro comparto, che si chiama Ebincolf, organizza già ormai da alcuni anni corsi di formazione gratuiti per gli assistenti familiari, che sono propedeutici al conseguimento di questa certificazione di qualità. Quindi il lavoratore che vuole innalzare il suo livello di professionalità può partecipare a questi corsi di formazione gratuiti e poi sostenere un esame per avere la certificazione una di qualità, maggiore, una qualificazione, certo, riconosciuta, come dire, dall'ordinamento, perché corrispondente appunto a questa norma tecnica emanata questo, insomma, dall'innovazione italiana. Avvalora moltissimo anche il ruolo di queste figure professionali che sostengono i nostri cari, e quindi anche da questo punto di vista notiamo come ci sia sempre più attenzione per fare in modo che venga garantita appunto professionalità adeguata di assistenza alle persone anziane ma anche ai bambini. Senta, volevo tornare, Lupi, solo per un secondo al caso di Eddie, perché mi stava venendo in mente una questione. Allora, Eddie ha interrotto il suo rapporto di lavoro a febbraio quando è mancata la persona appunto per la quale prestava assistenza, però lei era assunta in un nucleo familiare perché appunto ha detto adesso è la moglie che si sta incaricando di ripristinare il rapporto di lavoro. Ma quindi vuol dire che ogni volta che un contratto di lavoro si apre come collaboratore domestico che si occupa appunto come badante di una persona, cioè deve essere specificato il fatto nel contratto che si occupa di quella persona, e quindi una volta che la persona manca naturalmente il contratto viene a cadere? Non ho capito questo passaggio. Allora lì dipende da come formalmente, come dire, è stata formalizzata l'assunzione. È chiaro che c'è un dato formale e un dato sostanziale, no? Il dato formale è che nel momento in cui viene a mancare il datore di lavoro, è chiaro che viene meno uno dei soggetti titolari di quel rapporto di lavoro. Da un punto di vista sostanziale, se il lavoratore però ha lavorato in maniera continuativa e costante all'interno di un nucleo familiare, a mio avviso quel rapporto avrebbe dovuto avere, come dire, una prosecuzione naturale con i rimanenti componenti di quel nucleo familiare. Quindi anche quando la signora, come dire, metteva in evidenza il concetto dell'anzianità, penso che, come dire, potesse essere legittimo per lei riconosciuta comunque un'anzianità che partiva non dal nuovo contratto ma da quello antecedente. Sì, sì, no, ma a me appunto incuriosiva la modalità con cui si era concluso il precedente contratto, che era legato appunto alla persona che è mancata, quindi non al nucleo familiare. Lui era il datore di lavoro, quindi il contratto portava esplicitamente il nome di questa persona. Si chiude con lui. Rapidissimamente telegrafico, dottor Lupi, in costanza di rapporto, cioè c'è già un rapporto e i minimi, il quanto viene corrisposto è più alto dei minimi nuovi, bisogna fare qualcosa, bisogna segnalare qualcosa? Si può essere tranquillamente generosi, immagino. Assolutamente, sì. Chiaramente la contrattazione collettiva prevede dei minimi retributivi. Ci sono delle zone del nostro paese dove le retribuzioni di mercato sono certamente superiori. È buona norma quello di, come dire, che risulti, che ci sia traccia, possibilmente anche consegnare ai lavoratori un prospetto paga da cui risultino effettivamente le somme corrisposte, le somme percepite, certo, in modo che non ci siano poi, come dire, contestazioni su quanto è stato percepito, in che modalità. A proposito di contestazioni, c'era una domanda di Simone da Genova che non facciamo in tempo a mandare in onda perché dobbiamo dare subito lo spazio alla seconda parte del programma. Simone, su questa badante licenziata a fine anno, ci scriva @radio24.it. Gli amici di Assindatcolf ci danno sempre una gran mano a rispondere a tutti i quesiti degli ascoltatori, e così faremo anche con lei. E allora grazie ad Alessandro Lupi, vicepresidente di Assindatcolf, che è l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, il sito www.assindatcolf.it, e adesso il traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu inviandoci il tuo componimento a duedidenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo. La finanza è poesia. Due di Denari. Dobbiamo tornare indietro di qualche mese, caro Mauro, tornare al mese di maggio, quando il governo varava il decreto rilancio. Articolo 26, hai studiato e ripassato un po' la materia? Ciumbia, io non tantissimo, ma invece sa tutto di questa misura, che è una misura per favorire la capitalizzazione, insomma, per rinsaldare, per dare più solidità alle piccole e medie imprese, Alessandro Rivera, che abbiamo in collegamento. Alessandro Rivera, Deborah, è il direttore generale del Tesoro. Quindi, insomma, lo ringraziamo veramente di cuore per averci dato la sua disponibilità questa mattina, peraltro abbandonando anche un'importante conferenza stampa che si sta tenendo in questi minuti con il ministro Gualtieri, il ministro Patuanelli e non solo. Dottor Rivera, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. La conferenza stampa si è appena conclusa. Ottimo, quindi non ha fatto uno sgarbo a nessuno dei suoi colleghi questa mattina allontanandosi per Radio 24. Mauro. Allora, noi siamo davvero i primi in Italia a poter riepilogare sia le misure che avete illustrato in conferenza stampa e sia anche a dare qualche indicazione operativa proprio dalla viva voce sua, dottor Rivera. Quindi, allora, questo incentivo è un doppio incentivo in realtà, perché sostanzialmente ci sono due tipi di crediti d'imposta, dico bene. Gli uni vanno per i soci che capitalizzano, che apportano denaro nell'impresa, l'altro va all'impresa. Fin qui sto andando bene? Sì, in realtà l'incentivo è quasi triplo, direi, perché poi c'è un'altra misura aggiuntiva che si unisce agli incentivi fiscali. È un prodotto, lo possiamo anche chiamare così, un prodotto innovativo vogliamo testare per verificare quanto possa andare incontro alle esigenze delle imprese nel agevolare, rendere più semplice e meno costoso il fare aumenti di capitale, che in questo momento sono molto necessari per far fronte a perdite che ci saranno in conseguenza della crisi e anche e soprattutto poi finanziare nuovi investimenti e ripartire. Ci sono incentivi fiscali, come diceva lei, un credito d'imposta del 20% dell'aumento di capitale che viene effettuato, che va a beneficio di chi immette le nuove risorse nell'azienda, quindi da chi finanzia l'aumento di capitale. Poi c'è un credito d'imposta aggiuntivo che fino al 30% dell'aumento di capitale che viene fatto, che è a favore dell'impresa, l'impresa beneficiaria dell'aumento di capitale, e questa serve a coprire una parte delle perdite del 2020. Quindi lo Stato, diciamo, si affianca all'imprenditore che mette soldi in azienda sostenendo una parte del costo dell'aumento di capitale e poi si affianca all'azienda nel sostenere l'onere delle perdite. E accanto a questi incentivi fiscali poi c'è la possibilità di accedere a un prestito subordinato a tassi molto vantaggiosi per un importo fino a 3 volte l'aumento di capitale. I tassi sono molto bassi e il prestito è subordinato, significa che questo prestito sopporta eventuali perdite, qualora ci dovessero essere delle situazioni di difficoltà, prima degli altri prestiti, prima dei prestiti bancari cosiddetti chirografari, e questo significa che l'impresa avrà anche più facilità ad accedere al credito bancario. Allora, per riepilogare, sostanzialmente i soci, immaginiamo, apportano 100, avranno uno sconto, un credito d'imposta di 20. Complessivamente l'apporto di nuovo capitale sarà, poniamo, 1000, e allora l'impresa avrà un vantaggio, un credito d'imposta di 300. Ho compreso correttamente? Avrà un credito d'imposta di 300 sulle perdite che dovesse realizzare nel 2020. Le imprese ovviamente sono quelle che hanno avuto un calo di fatturato significativo. Dottor Rivera, a quale platea di imprese, piccole e medie imprese, medie dimensioni per l'appunto o piccole dimensioni, state guardando? A chi pensate di raggiungere? Perché noi sappiamo che il lockdown ha picchiato duro su tutti, sicuramente questa fase così problematica per l'economia italiana e mondiale ha trovato diverse aziende già in difficoltà e non ha mancato appunto di sferrare il suo attacco anche su quelle che invece erano in salute e che quindi pagano il dazio di questa crisi ugualmente. Quindi a chi pensate di raggiungere e qual è effettivamente anche la, come dire, caratteristica economica dell'azienda che può meglio sfruttare questo piatto di incentivi che state rendendo disponibili? Noi abbiamo per interventi di questo genere, diciamo interventi che vanno a copertura perdite o rafforzamento patrimoniale, suddiviso le aziende in tre categorie, quelle di dimensioni piccole fino a 5 milioni di fatturato, quelle da 5 a 50 e quelle sopra i 50 milioni, e per ciascuna di queste abbiamo studiato degli interventi che fossero organizzati in relazione alle caratteristiche delle imprese. Questa misura qui riguarda le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato che abbiano avuto un calo di fatturato in marzo-aprile superiore al 33%, quindi quelle che hanno subito le conseguenze del lockdown. Sono tante, sono più di 50.000 imprese nella ricognizione che abbiamo fatto noi, e il numero degli addetti è anche molto rilevante. Sono un terzo della nostra forza e capacità produttiva, più o meno, e la nostra auspicio naturalmente è che facciano ricorso a questa misura, perché significa che queste imprese saranno rinforzate, avranno nuovo capitale e potranno pensare al futuro in maniera più serena. Difficile prevedere la risposta, certo, però. Anche perché richiedete, appunto, per poter avere garanzia dell'ottenimento di questi benefici, che la ricapitalizzazione venga fatta entro la fine dell'anno, e quindi sì, sono piani di investimento anche importanti da fare per le imprese. È così, la scadenza alla fine dell'anno non dipende da noi, nel senso che queste misure sono permesse in queste circostanze eccezionali da regole straordinarie adottate dalla Commissione che derogano al quadro normale degli aiuti di Stato. Questo quadro temporaneo introdotto scade al 31 dicembre. Quindi bisogna approfittarne adesso, le condizioni sono vantaggiose, si tratta di imprese familiari, quindi aumentare il capitale per queste imprese non ha lungaggini burocratiche e amministrative. È chiaro che la decisione di investimento è impegnativa, ma in questo modo forse la rendiamo più facile. Dottor Rivera, una cosa che ci si chiede sempre in questi casi è: ci sono risorse sufficienti? Nessuno rischia di rimanere indietro? Le risorse sono abbondanti, quindi le risorse sono stanziate per il credito d'imposta, sono 2 miliardi, e quelle per il prestito sono 4 miliardi. Noi pensiamo che siano più che capienti, probabilmente non saranno utilizzate tutte, abbiamo preferito tenere un margine per evitare click day o cose di questo tipo. Le imprese possono star serene e i soldi ci saranno. Certo, dottor Rivera, ci manca un minuto prima della chiusura, ci dica lei quali aspetti non ci siamo ricordati di segnalare in maniera adeguata, appunto, ai nostri ascoltatori, molti dei quali sappiamo con certezza sono piccoli imprenditori che ascoltano volentieri Radio 24. Ma io credo che abbiamo curato un po' tutti gli aspetti della misura. Quello che mi viene da dire è che la misura in cui sarà utilizzata dipende da tanti fattori, difficile ponderare. Però un fattore centrale è chiaramente le aspettative che gli imprenditori stessi hanno sulla ripresa, e quindi quanto il reinvestimento dà delle prospettive di ritorno. Quindi è un termometro che noi auspichiamo indichi una direzione di marcia positiva e di rimbalzo, come stiamo vedendo dai numeri. L'auspicio è che ci sia una risposta forte. Oggi non abbiamo tempo di farlo, ma magari dottor Rivera si consideri invitato per un'altra circostanza, per magari andare a dare qualche dettaglio in più rispetto al fondo patrimonio PMI, che opera attraverso l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito delle imprese. Oggi non ce la facciamo, ma la reinvitiamo volentieri al più presto. Grazie. Grazie. Grazie ad Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, e noi torniamo domani per Investire Informati, caro mio. A domani. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.